stata la Critical Mass, che era uno delle tappe di un percorso della giornata di oggi. Infatti anche la Critical Mass è stata una Critical Mass un po' particolare, nel senso che aveva delle tappe precise con una storia, insomma, da raccontare, no? Esattamente, la Critical Mass è partita dalla piazza della Vittoria, che per oggi è diventata la fiera del commercio equo e degli stili di vita alternativi. Poi ha proseguito lungo la via principale della città per superare il Ticino e arrivare in piazzale Ghinaglia, dove c'è stata la commemorazione con i canti di lotta dell'omonimo compagno antifascista ucciso nel 21 durante un agguato da una banda di fascisti che cercava di entrare nel borgo Ticino, quindi ancora prima che il regime si affermasse e che le prime bande partigiane fossero create. Poi abbiamo proseguito per le vie principali della città e abbiamo raggiunto un secondo snodo simbolico fondamentale, che è la ex Necchi, una fabbrica che rappresenta un pezzo di storia della città, i cui operai sono da 6 anni ormai cassintegrati e non hanno alcuna prospettiva di reinserimento nel mondo lavorativo. Abbiamo proseguito poi e abbiamo fatto ancora tutte le vie del centro per chiudere poi qua nella piazza degli studi, in piazzetta Azzani, che è diventata oggi la piazza degli studenti, dei saperi e dei movimenti, dove ci sono i banchetti sulle proposte per uno sviluppo locale sostenibile, c'è il banchetto di Radioactive, chiaramente ci sono mostre sulle manifestazioni in Francia contro il CPE, mostre sul Chiapas, c'è il caffè rebelde zapatista, insomma tutta una serie di proposte per uno sviluppo sostenibile e equo che oggi abbiamo deciso di portare in piazza, perché pensiamo che il 25 aprile non debba essere solo un momento per ricordare il passato, la resistenza, i suoi eroi, i suoi caduti, ma debba essere anche un momento per far rivivere effettivamente i valori di libertà, giustizia e i valori egualitari che erano il fondamento della resistenza, che oggi questi gruppi, ognuno nel proprio ambito, ognuno secondo le proprie modalità, portano avanti. E appunto, ma secondo te ha ancora senso festeggiare il 25 aprile? Insomma, veniamo da elezioni pesantissime, per cui anche al termine dello scrutinio dei voti, alla fine siamo arrivati al punto dove si diceva 25 aprile sarà appunto la data in cui tutti dovevamo scendere in piazza per proclamare la vittoria di Prodi, no? Quindi dell'Unione. Al di là di questo, cioè, secondo te il senso della giornata di oggi qual è? Il senso della giornata di oggi secondo me sta proprio nel fatto che oggi, se vogliamo veramente combattere il revisionismo, è importante che si incominci veramente a parlare di diritti, che si cominci a fare delle proposte per uno sviluppo alternativo. Questo perché secondo noi il revisionismo trova terreno fertile laddove, come avviene in Italia negli ultimi decenni, è l'intera cultura dei diritti ad essere messa sotto accusa, gli stessi idee di diritto ad essere esiliata dalla coscienza delle persone, e quindi è evidente che dove non c'è una mentalità, come ad esempio in Francia c'è, e le ultime manifestazioni popolari l'hanno dimostrato, di consapevolezza di dover esigere dei diritti, lì non ci può essere spazio neanche per la memoria storica. Quindi se noi oggi vogliamo cambiare le cose, vogliamo veramente far rivivere i valori della resistenza, creare un mondo più giusto, è importante che colleghiamo il passato al presente, che diamo voce a tutti quei movimenti che si stanno battendo.